Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, cari amici, sono tornata. Siamo qua a Milano dopo il Salone del Libro di Torino, pronti per una nuova puntata. Naturalmente abbiamo subito pronto il nostro sommario, ma abbiamo anche Filippa Oreggi, regia la parte tecnica, e Laura Vanossi in redazione. Quindi tutto è tornato nella normalità. Andiamo. Quando l'intestino va in fiamme. Pillole dell'amore. Chi fa da sé rischia grosso. Relax in vasca da bagno. Oggi parliamo delle malattie infiammatorie croniche intestinali. A questo gruppo di patologie appartengono la rettocolite ulcerosa e la malattia di Crohn, oltre ad alcune coliti che vengono dette indeterminati, che hanno caratteristiche simili a quelle delle due malattie principali, ma se ne differenziano. Allora, trattandosi di malattie croniche, è chiaro che hanno un impatto molto importante sulla qualità di vita del paziente, che si trova spesso ad affrontare un forte disagio psicologico. Noi oggi, come d'abitudine, parleremo di sintomi, di diagnosi, di terapia, ma cercheremo soprattutto di parlare di benessere globale e soprattutto sottolineare quali sono gli aiuti su cui può contare il paziente, quanto e come può essere importante la relazione con il medico curante e anche con le associazioni di pazienti che in questo tipo di malattie, come in altre di cui abbiamo parlato, svolgono un ruolo determinante. Qui in studio con me è tornato a trovarci il dottor Silvio Danese, che è responsabile del Centro per la ricerca e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno e grazie per l'invito. Tra l'altro, lo dico agli ascoltatori di Radio 24, lei è lo specialista del mese di Humanitas, quindi gli ascoltatori di Radio 24 come possono avere comunque un filo diretto con lei e la sua equipe durante tutto il mese di maggio andando sul sito Humanitas. Vi parlavo dell'importanza dell'associazione dei pazienti e qua in studio con me abbiamo l'avvocato Marco Greco, che è presidente dell'Associazione Europea Malati di Rettocolite Ulcerosa e Malattia di Crohn. Avvocato, buongiorno. Grazie per l'invito. Allora, dottor Danese, proprio domani sarà la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali e questa è un'occasione per ricordare i numeri, ma per ricordare anche soprattutto i passi avanti che si sono fatti nella diagnosi e nella terapia di questo tipo di malattie. Sì, assolutamente. Il calcoli che solo in Italia ci sono circa 200.000 persone che sono affette di queste patologie e in tutto il mondo oltre 4 milioni, quindi sono malattie ad alto impatto. I numeri sono in aumento, prima sembravano delle malattie di nicchia, adesso invece sono diventate delle malattie, tra virgolette, più comuni. Come mai questo aumento? Riuscite a diagnosticarle meglio oppure avete trovato una causa responsabile di questa esplosione? Questo è ciò che sta succedendo in tutte le patologie infiammatorie croniche e autoimmuni. C'è un aumento, si calcola, di oltre il 500% e il motivo non si sa. Si pensa che l'ambiente giochi un ruolo chiave nel stimolare il sistema immune. Avvocato, lei è giovane, ha 33 anni, 34, sì. 33. Lei da quanto ha scoperto di essere malato e come è andata il suo incontro con la diagnosi? Ma è stato un incontro non semplice. Io sono ammalato da 17 anni e ho scoperto di avere questa malattia all'esito di un vero e proprio travaglio durato quasi 2 anni e mezzo, in un periodo peraltro in cui ancora c'era poca conoscenza della malattia, in cui, come diceva lei, si considerava di nicchia questa patologia, in cui soprattutto c'era ancora il pregiudizio della psicosomaticità della malattia, quindi si pensava che l'origine fosse quella, come se, mi permetto una provocazione, come se una fistola fosse psicosomatica. E in un periodo in cui ancora, e questa è veramente una critica al periodo di allora, non si sapeva neanche come scriverlo Crohn. Anche adesso vedo che ci sono delle agenzie che scrivono Crohn in modo scorretto, questa la dice lunga, ma comunque. Esatto, e in quel senso fu importantissimo, per esempio, incontrare, alla fine imbattersi per caso in un centro specializzato, perché fu veramente un caso, dopo 2 interventi chirurgici e poi iniziare a trattare la patologia nel modo giusto. devo ringraziare, ed è poi il motivo per cui oggi sono qui, il fatto di aver incontrato l'associazione lungo questo cammino, e quindi l'importanza del rapporto con altre persone con lo stesso problema, l'importanza del supporto della famiglia, perché sarebbe stato troppo facile ritenere appunto la malattia psicosomatica e quindi non proseguire nelle indagini. Se così non fosse stato, gli effetti avrebbero potuto essere devastanti, e soprattutto credo che poi l'importanza del rapporto anche con il medico che sì, ci segue, rapporto, e soprattutto trovare anche un medico che sappia fare il medico, no? Che sappia affrontare questo, esatto, problema in modo adeguato. Avvocato, lei è il presidente dell'Associazione Europea Malati di Rettocoli Ulcerosa e Malattia di Crohn, un'associazione che ha fatto grandi passi avanti per garantire ai malati una qualità di vita, mi piace dire un benessere no, globale, perché ci sono tante cose che un malato deve sapere e poter fare. Che cosa siete riusciti ad ottenere? Allora, nel corso, quest'anno EFCA compie 20 anni, limitandosi all'area italiana, quindi a quella che in Italia si chiama Associazione Amici, siamo riusciti ad ottenere le attuali esenzioni, per esempio rispetto alla spesa sanitaria, che sono stati un passo avanti importantissimo. 15 anni fa si pagava molto di più sì, per prestazioni che sono necessarie. Siamo riusciti, credo, ad aumentare il livello di attenzione su queste patologie. Ripeto, allora non saremmo mai stati invitati in una trasmissione radiofonica a parlare di una patologia che veniva considerata anche antipatica sotto il profilo dei sintomi. E credo soprattutto siamo riusciti a portare un messaggio di speranza sul fatto che si può condurre una vita normale. Non è semplice, ma è una dura battaglia, ma la speranza va data. Dottore, vogliamo dare una breve definizione di queste due malattie di cui stiamo parlando? Perché anche gli amici da casa, ci sono dei sintomi che vengono spesso trascurati. Diceva l'avvocato, un tempo si pensava che si dava tutta colpa allo stress, o si tendeva a leggere questi sintomi come spie di un disturbo psicologico, di un particolare momento difficile. Adesso le cose sono molto più chiare. Io vorrei che lei ci aiutasse a capire e a distinguerle, perché nonostante appartengano alla stessa famiglia, sono due malattie ben diverse. Dottore. Assolutamente. Per la rettocolite ulcerosa la diagnosi è abbastanza semplice, perché la presenza di diarrea con sangue nelle feci già sono il campanello d'allarme che indirizza subito il paziente dallo specialista, e quindi la diagnosi immediata. Invece il problema è proprio la malattia di Crohn, che è molto più subdola, per cui ci possono essere dei sintomi molto specifici, tipo dolore, febbricola, perdita di peso, oppure diarrea con sangue, ma lì la diagnosi diventa presto fatta. Quindi col Crohn le cose sono un po' più complicate e spesso si arriva a un ritardo diagnostico. 800 24 0024, noi ci rivolgiamo naturalmente alle persone che hanno già ricevuto una diagnosi, perché vogliamo, con i consigli del dottor Danese e dell'avvocato Greco, aiutarli a capire come è cambiata la situazione, come possono condurre una vita normale e quindi di qualità. Ma come sempre la nostra trasmissione vuole essere anche un importante momento per sottolineare il ruolo della prevenzione, e per fare prevenzione bisogna fare informazione. Questo è quello che cerchiamo di fare noi ogni giorno. 349 238 6666, se volete mandarci un messaggio. Una mela al giorno. Partiamo da una notizia di cronaca che ha come protagonista il chitarrista dei Tokyo Hotel, che durante un tour in Asia, per sostenere e soddisfare direi le sue numerose fan, ha deciso di rafforzare, dare un aiutino alla sua vis amatoria facendo ricorso alle classiche pilloline. Ma come molti di voi avranno letto, ha rischiato grosso, e lui stesso ha rilasciato un'intervista in cui dice: non era più divertente, era davvero brutto. Allora speriamo che questo funzioni come monito almeno per i fan dei Tokyo Hotel. Noi intanto partiamo dalla notizia per fare alcune considerazioni sull'uso di queste pillole. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Bruno Giammusso, responsabile dell'unità operativa di andrologia dell'Università di Catania. Professore, bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Professore, alcune puntualizzazioni. Quelle che sono state ribattezzate pillole dell'amore sono farmaci a tutti gli effetti e vanno prescritti dal medico. Questo mi sembra... È così. Assolutamente sì. Sono farmaci, sono nati con una precisa indicazione, che è la disfunzione erettile. E la disfunzione erettile è una patologia dell'erezione. Probabilmente l'equivoco nasce dal definire le pillole dell'amore quasi che fossero degli afrodisiaci o che fossero qualcosa che possono rendere più intenso e più piacevole l'atto sessuale. In realtà si tratta di farmaci efficaci, quindi eccellenti dal punto di vista della loro funzione, ma indicati per quei pazienti che hanno una disfunzione erettile, che quindi non riescono a ottenere o a mantenere l'erezione durante tutto il tempo del rapporto sessuale. Abbiamo detto che questi farmaci devono essere prescritti dal medico, ma lo sappiamo, possono essere acquistati facilmente su internet. In questo caso, non solo, professore, noi rischiamo di prendere un farmaco senza controllo del nostro curante, ma rischiamo anche di assumere un preparato, un prodotto di cui non si conosce la composizione, per cui rischiamo due volte. Si rischia due volte ed è verissimo. Quindi anzitutto la ricerca di un fornitore, tra virgolette, alternativo al medico, questo è assolutamente sconsigliabile, ma è proprio la legge che non lo consente. Il farmaco deve passare prima dal medico, la prescrizione deve passare dal medico e successivamente dalla farmacia. E quindi saltare questo filtro è pericoloso per l'indicazione, ma soprattutto perché internet non ci garantisce mai quello che ci viene somministrato, certo. Proprio perché è la farmacia che dà la garanzia anzitutto del principio attivo, di che cos'è, poi di quanto ce n'è e di come viene conservato, come viene preparato. Su internet si può trovare di tutto, abbiamo esperienze condotte proprio analizzando ciò che si vende su internet, dove nella migliore delle ipotesi si tratta di farmaci sottodosatici, cioè con una minor quantità di principio attivo, ma possono contenere eccipienti pericolosi. Ricordiamo, gli eccipienti sono le sostanze che vengono aggiunte al principio attivo e molto spesso si tratta di sostanze non adatte a quel tipo di principio attivo e quindi sono pericolose. A volte succedono cose incredibili, sono farmaci che viaggiano nei container sotto il sole a temperature impossibili che ne degradano il principio attivo, possono anche essere tossici. Professore, allora abbiamo già sottolineato che sono farmaci nati per curare una patologia e non per diventare dei supermaci, ma la storia del nostro chitarrista ci suggerisce un'ulteriore considerazione relativa al dosaggio: se una fa bene non è che 10 fanno meglio. Esattamente, è proprio così. Le dosi di questi farmaci nascono da studi che si chiamano in inglese dose finding, cioè degli studi finalizzati a trovare il dosaggio ottimale. Sono farmaci che agiscono su recettori e a determinati dosaggi, che sono quelli, i dosaggi massimi che troviamo in commercio, saturano il recettore. Andando oltre non si ottiene un miglioramento dell'efficacia, però ci si becca tutti gli effetti collaterali che sono prevedibili. Il nostro amico chitarrista dice di aver avuto problemi di vista, di aver avuto un terribile mal di testa e tutto sommato gli è andata bene, perché il rischio maggiore era quello di avere una forte crisi ipotensiva che poteva portarlo proprio alla sincope, quindi alla perdita di conoscenza e in alcuni casi può essere anche rischioso per la vita. Io direi che questo giovane amico chitarrista ha fatto in un colpo solo tutte le sciocchezze che si possono fare con questi farmaci e quindi ci ha dato anche la possibilità di parlarne, quindi mai utilizzarli di propria iniziativa ma solo su consiglio di un medico, mai andarli a recuperare in un posto che non sia la farmacia che ci dà le garanzie, mai forzare i dosaggi, perché forzando i dosaggi non otteniamo alcun vantaggio in termini di efficacia ma solo svantaggi in termini di effetti collaterali. Messaggio ricevuto, professor Giammusso, grazie. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Pronto soccorso. E noi torniamo al tema del giorno. Oggi parliamo di malattie croniche intestinali. In studio con me il dottor Danese, la parte che non affronterà la parte clinica, mentre l'avvocato Marco Greco, come malato e presidente dell'Associazione Europea Malati di Rettocolite Ulcerosa e Malattia di Crohn, ci aiuterà a capire quanto e come le associazioni possono aiutare i malati e soprattutto informerà chi di voi vorrà mettersi in contatto con noi sulle strade da percorrere per raggiungere magari, no, benefici che al momento non sono stati raggiunti. Dottor Danese, noi li abbiamo rapidamente descritti, abbiamo sottolineato determinato i sintomi che dobbiamo tenere bene in considerazione e riferire al medico. Adesso proseguiamo il nostro viaggio, aggiungiamo altre due parole chiave: ereditarietà e novità. Rima parte, dottore. Quanto pesano i fattori ereditari su queste malattie? Queste non sono malattie tipicamente ereditarie, ma è presente una familiarità, quindi se c'è un componente della famiglia che è affetto, c'è un più alto rischio di sviluppare la malattia. In realtà è stato identificato il primo gene ormai da 10 anni nella malattia di Crohn, che è un gene che è coinvolto nelle cause di questa malattia, per cui c'è un'alterata risposta del sistema immunitario nei confronti della flora intestinale. Abbiamo Stefania, ci chiama dalla provincia di Roma all'800 24 00 24. Stefania, benvenuta e buongiorno. Ben trovati, buongiorno. Volevo chiedere al dottore appunto dell'ereditarietà o familiarità, in quanto il fratello di mio padre ha avuto e ha superato questa malattia. E volevo anche sapere se c'era una previsione, qualcosa da fare per accertarsi di starne fuori. Certo. Bella domanda, dottor Danese. Se abbiamo un caso in famiglia, noi dobbiamo fare delle indagini, possiamo capire se in qualche modo siamo più predisposti o rischiamo? C'è un rischio che si calcola aumentato di 10 volte rispetto alla popolazione normale se c'è un parente, però assolutamente no, al momento non vi sono dei test in grado di diagnosticare in maniera precoce chi svilupperà o meno la malattia di Crohn. Novità, andiamo alle novità. Novità sul fronte della terapia e novità anche, ne abbiamo già anticipato, per le persone che hanno già ricevuto diagnosi. Dottore, novità sul fronte della terapia. Assolutamente, diciamo che nella terapia del Crohn e della retticolite ulcerosa negli ultimi 10 anni c'è stata una vera rivoluzione, e questa rivoluzione è dovuta all'avvento dei farmaci biologici, cioè con dei farmaci che sono intelligenti, in grado di bloccare a livello molecolare quelli che sono i bottoni dell'infiammazione. Quindi in questo caso abbiamo per esempio nella pratica clinica i farmaci che bloccano il tumor necrosis factor, gli anti-TNF. Abbiamo Fabio che ci chiama da Trento. Buongiorno Fabio, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Io chiamo per mia moglie. Sì? Le è stata diagnosticata ancora 15 anni fa la colite ulcerosa. Sì? E adesso si sta curando con delle pastiglie. Adesso mi hanno detto di non dire il farmaco. Sì? Il principio attivo possiamo dirlo? Non me lo ricordo. Va bene. Memoria. Adesso diciamo lei sta abbastanza bene, la qualità di vita assolutamente buona. Adesso però è entrata in menopausa, mia moglie ha 54 anni. Sì. E ha cominciato ad assumere i farmaci per la menopausa, il calcio, l'estrominerale, le altri farmaci, e tutti quanti le stanno dando fastidio perché creano molta aria nell'intestino e soffre moltissimo. Adesso non so se... Grazie Fabio, ha fatto molto bene a fare questa domanda al dottor Danese, che sono certa se riuscirà a darci una risposta. La vita va avanti e ci sono delle condizioni che ci necessitano, su prescrizione medica, di assumere farmaci per altri problemi. Può essere una relazione negativa? Assolutamente sì, soprattutto se si considera che con la colite ulcerosa si associa una dismicrobiosi, quindi un'alterazione della flora intestinale che può portare gonfiore. Inoltre, molte volte quando c'è un'infiammazione dell'intestino si può associare una sindrome da contaminazione del piccolo intestino dei batteri, quindi in questo caso per esempio l'uso o di fermenti lattici oppure dei disinfettanti intestinali può migliorare tantissimo la sintomatologia. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di malattie infiammatorie croniche intestinali. Croniche vuol dire che, dottor Danese, durano tutta la vita. E questo mi permette di dire che la terapia va assunta non a spot, ma per lunghi periodi, se non per tutta la vita. Esattamente. Ritornerei sulla nostra amica di Macerata, Valentina, che chiedeva dei consigli. Universitaria, diagnosticata un anno fa dopo la comparsa di febbre ed eritema nodoso, la retticolite ulcerosa, si trova a dover fare i conti con questa malattia e con gli esami universitari. Avvocato, proviamo a metterci, lei che l'ha vissuta, perché avete fatto anche la stessa facoltà, quindi possiamo, l'associazione sicuramente con i gruppi di autoaiuto, come lei ci anticipava, può dare un supporto importante, può essere veramente importante trovare in altre persone che hanno lo stesso problema un aiuto, un supporto. supporto anche psicologico. Può essere il gruppo di autoaiuto, può essere anche semplicemente il frequentare l'associazione, venire in contatto con altre persone che, avendo lo stesso problema, hanno magari più esperienza o comunque possono anche farci sentire meno soli. L'associazione organizza anche eventi ludici, ma allo stesso modo io mi sento di raccomandare, ad esempio, anche ci sono forum su internet rispetto a questa patologia che sono fatti molto bene. Ben fatti. Senta, avvocato, però veniamo alla sua esperienza, perché poi è sì, quella, no? Proviamo a dargli un consiglio della nonna. Vissuta che possiamo, della nonna, lei è giovane come l'acqua, sì. dell'avvocato, ecco, avvocato malato e presidente dell'associazione. Sicuramente lo stress, adesso Valentina parlava degli esami universitari, ma dato che la malattia per fortuna permette di fare una vita assolutamente normale, le occasioni di stress sappiamo che possono diventare invalidanti, acuire alcuni disturbi, alcuni sintomi. Il consiglio? Allora, il primo consiglio è quello di essere molto onesti con se stessi, quindi se non si sta bene, ammetterlo, riconoscerlo e ricorrere al medico con onestà e fiducia. Quindi se c'è un rapporto buono, diretto, costante con il gastroenterologo che ci segue, diventa più semplice anche gestire la patologia. Sì. Dal punto di vista dell'esame universitario posso dire a Valentina quello che è stato il modo in cui ho risolto io il medesimo problema, che era quello ad esempio di parlare con il professore e chiedere di fare l'esame per primo. Normalmente il problema è quando si vuole farlo dopo, ma farlo per primo evita anche l'accumulo dell'intera giornata di stress. Normalmente è una cosa che viene concessa. Io poi tutti, no, gli altri colleghi, compagni saranno felici, quindi uno prende due piccioni con una fava. Andiamo al dottor Danese, perché io vorrei che lei ci aiutasse a distinguere bene il colon irritabile dalla malattia di Crohn. Quanto ci chiedono e quanto volevamo sapere noi da lei, perché di colon irritabile, appena uno è un po' stressato, ha un po' l'intestino che fa le vizze, uno dice: ma sai, è un colon irritabile, è proprio come se il colon diventasse una, no, una persona con un caratteraccio. Però sappiamo che esiste anche la malattia di Crohn. Possono, un colon irritabile può essere in realtà una malattia di Crohn non diagnosticata? E come si fa a capire? Quali sono i segnali che le accomunano e quelle che invece fanno dire al medico: no, questa è tutt'altra cosa? In realtà la diagnosi di colon irritabile è proprio una diagnosi di esclusione. Quindi, nonostante vi sia una sovrapposizione di sintomi, tipo il dolore addominale oppure il cambiamento della regolarità intestinale, quindi diarrea, stipsi, alternativa, per periodi molto lunghi. Però il concetto è che mentre nell'intestino irritabile, se si fa una colonoscopia per esempio, appare totalmente negativa, invece nella malattia di Crohn si riescono a trovare delle lesioni che sono tipiche, tipo le ulcere intestinali, oppure ci sono degli esami del sangue che permettono di completare la diagnosi di malattia di Crohn. Quindi la diagnostica strumentale a quel punto diventa essenziale per fare una corretta diagnosi. Per la rettocolite ulcerosa invece la diagnosi è più semplice e non si rischia di confonderle con altre patologie, o sbaglio? Assolutamente, molto più facile, perché la colonoscopia permette di fare diagnosi, così come ovviamente l'esame istologico. Maria ci chiama da Caltanissetta. Buongiorno Maria. Sì, buongiorno. Benvenuta. Grazie. Cosa ci racconta? Io praticamente sono affetta da rettocolite ulcerosa da 25 anni. Sì. Sono stata sempre in cura. Ho fatto praticamente il cortisone, cicli e cicli, nei periodi di riacutizzazione dosi elevate, poi man mano diminuite, però non me ne esco mai dal cortisone, cioè come posso fare? Grazie Maria. Dottor Danese, i pazienti affetti da malattie intestinali croniche devono fare ricorso spesso al cortisone. Adesso si parla però anche di un nuovo modo di somministrare questo farmaco. Il consiglio per Maria e per le persone che si ritrovano in una situazione analoga? Assolutamente il cortisone non va utilizzato per lunghi periodi, come succede per la signora, perché porta a tantissimi effetti collaterali. In questo caso, cosa vuol dire, mi scusi, per lungo tempo? Lungo tempo significa per mesi, mesi e mesi. Come fa la signora? Più di due cicli l'anno non va assolutamente fatto. Già la comparsa del terzo ciclo pone stretta indicazione nell'utilizzare farmaci o immunosoppressori o farmaci biologici. Quindi oltre i due cicli no. Sì, e soprattutto il paziente deve essere libero da steroidi, quindi all'inizio della sua storia clinica lo può utilizzare, ma nel futuro assolutamente la steroidodipendenza va evitata. Quindi Maria può liberarsi dal cortisone e assumere una terapia più su misura. Esattamente, con dei farmaci controllati. Roberto invece ci chiama da Lucca. Roberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci. Io ho 53 anni, soffro da una vita di colon irritabile, al quale sembra essere associata un dismicrobismo particolarmente consistente che mi fa star male praticamente due giorni sì, due giorni no. Quindi a cicli continui, tenete presente che ho fatto tutte le possibili cure dal punto di vista antibiotici normalizzanti specifici, e paradossalmente le cose che mi fanno star meglio sono degli antibiotici a largo spettro, sì, che dopo qualche giorno mi normalizzano e io in quella situazione posso mangiare qualsiasi cosa, mentre in condizioni normali io sono particolarmente sensibile anche, che ne so, a mezzo bicchiere di vino rosso oppure a qualsiasi altro, al pomodoro. Anche in condizioni normali, quando io sono costretto a fare una dieta riequilibrante, anche al riso in bianco mi dà fastidio. Roberto, grazie. Dottor Danese. Assolutamente non è paradossale quello che dice il signor Roberto, cioè l'uso di antibiotici a largo spettro che aiutano a migliorare la sintomatologia. Calcoli che proprio in questi giorni è stato sottoposto all'FDA l'approvazione di un nuovo antibiotico a rilascio intestinale, proprio perché antibiotici mirati ad agire soltanto nell'intestino abbassano la carica batterica e quindi aiutano tantissimo la sintomatologia dei pazienti quando c'è dismicrobismo. E Roberto faceva anche riferimento alla dieta, e sicuramente è invalidante, no? Non poter mangiare o dover escludere alcuni alimenti, dottore. Assolutamente. Nella malattia di Crohn, segnato, per esempio, sì, e nella rettocolite ulcerosa, in genere non esiste una dieta particolare, soltanto quando vi sono quando c'è tanta diarrea è chiaro che è bene evitare fibre, frutta e verdura, oppure quando vi sono delle stenosi, quindi la chiusura esattamente, il restringimento del lume intestinale, a quel punto bisogna cercare di evitare il più possibile le scorie. Avvocato, la sua dieta come va? Cioè, immagino, io so che lei si muove un po' un piccione, un avvocato viaggiatore, sì, sto dicendo un piccione viaggiatore, quindi si troverà anche molto spesso a mangiare un panino piuttosto che al ristorante, a saltare i pranzi, saltare i pasti, più spesso di quanto vorrei. Allora, la dieta per lei è un problema oppure riesce a nelle fasi di acuzia è sicuramente un problema, poi come tutti gli ammalati di lungo corso si imparano nel corso degli anni piccoli trucchi, piccole strategie, si cerca di organizzarsi il più possibile con il cibo, si cerca anche di capire, e questo porta via tanto tempo, quali specifiche pietanze possono creare problemi alla specifica persona, quindi si sa quali cibi evitare, si cerca poi di fare molta attenzione, ecco, magari non è in paesi esotici tendiamo ad evitare più spesso di altre persone pietanze esotiche. Buongiorno a Matteo che ci chiama da Bari all'824-0024. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda, probabilmente nell'attesa l'argomento è stato già trattato. Sono il papà di Silvia e all'età di 15 anni gli è stato diagnosticato il Crohn e da 10 anni è stata fatta una piccola resezione. Da 10 anni è con... sotto cura della mesalazina, il Pentasa. Volevo chiedere, di questi probiotici o di questi nuovi farmaci biologici, sì, si può sostituire la mesalazina e quali sono le differenze, quali sono i vantaggi? Dottor Danese. Allora, intanto probiotici o biologici sono due categorie diverse, ma l'emozione di parlare in radio poi della propria figlia sicuramente. I probiotici li affronteremo e vediamo se possono aiutare nel quotidiano anche le persone che dal colon irritabile alla malattia di Crohn e colite ulcerosa. Matteo voleva sicuramente parlare dei farmaci biologici. Sì, allora, quando la malattia non è controllata dai farmaci classici, allora si possono utilizzare gli anticorpi bloccanti, il TNF. Ci sono degli studi che fanno vedere che quando questi farmaci vengono utilizzati nei pazienti con una malattia giovane, allora sono altamente più efficaci nel modificare la storia naturale della malattia. Quindi non è necessario che la malattia vada avanti, anzi, avendo questi farmaci bersaglio che mirano proprio là dove devono andare, anche nelle fasi iniziali si possono prendere e possono avere dei risultati soddisfacenti. E si riesce a non far progredire la malattia là dove sono efficaci. Anna da Rimini, buongiorno. Le chiederei di essere un po' concisa. Ce la facciamo? Grazie. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Io telefono per mio figlio, un bambino di 5 anni, quest'inverno gli è stata diagnosticata la colite ulcerosa. Volevo sapere quale poteva essere il suo stile di vita, insomma le sue condizioni da adesso in avanti, ecco, perché è un bambino molto piccolo. Io fino adesso ho sentito parlare persone di età adulta, però nei bambini così piccoli non so cosa possa essere. E come mamma come si deve preparare? Per avvocato, può dare una mano lei alla nostra mamma? Sicuramente vorrei dare un messaggio di speranza alla signora. Come abbiamo detto nel corso di questo incontro di oggi, le malattie riescono a essere controllate molto meglio rispetto al passato. Lo stile di vita potrà essere ragionevolmente normale. Quello che facciamo ad esempio in associazione è proprio di occuparci anche di pediatria nello specifico. Ecco, quale consiglio danno i vostri pediatri? Quello di far vivere al bambino una vita più normale possibile. Può fare sport, mangiare alla mensa, dottor Danese, sono bambini assolutamente normali. Fare una vita normale. E volevo dire una cosa, sì. Dall'anno prossimo EFCA organizzerà per la prima volta in Europa, sulla base dell'esperienza americana, un camp per i bambini specifico, quindi un luogo di vacanza per i bambini con massima assistenza medica, e quindi potrebbe essere anche una buona occasione di divertimento. E anche un'occasione di festa, sarà la festa di domani, vero? Sì. Quindi è un momento di incontro, ma un momento ludico quello che ci aspetta domani a Bologna. È un momento di festa che credo che ci siamo meritati. Ci sono tanti casi difficili con queste malattie, tante situazioni drammatiche con cui veniamo in contatto, e credo che domani chi ha questa patologia abbia il diritto di godersi la giornata. E vorrei chiedere al dottor Danese, cosa dice da medico? Dobbiamo festeggiare? Assolutamente, soprattutto perché bisogna aiutare la ricerca per queste patologie. Quindi investire nella ricerca. Io vorrei, prima di salutarvi, abbiamo parlato di un bambino di 5 anni, io avevo tenuto da parte un messaggio di Francesca che ci scrive: un bimbo di 14 anni che ha avuto degli episodi di sangue nelle feci, dalla colonscopia è risultato una colite specifica, da 2 anni è in cura e il medico dice di continuare così altri 6 mesi con la mesalazina, va bene o è meglio fare un controllo? Naturalmente non possiamo, non le chiedo di fare una diagnosi al bambino di Francesca, ma dottor Danese, di dare un'indicazione, trattandosi, come abbiamo visto, di un ragazzino molto giovane. Assolutamente, essendo, come già detto prima, una malattia cronica, le cure vanno assunte in maniera cronica. Solo facendo in questo modo si riesce ad evitare le recidive di malattia. Allora, io ringrazio davvero tanto il dottor Danese che ci ha aggiornato, ci ha dato delle speranze, è riuscito soprattutto a farci capire un po' le differenze tra alcuni sintomi, magari a volte comuni a diversi disturbi intestinali, invece delle malattie che possono essere diagnosticate in modo preciso. Avvocato Greco, grazie anche a lei. Grazie. Allora, a domani vi pensiamo a Bologna. Grazie. Sì. Grazie a voi. Allora, buona giornata. Dallo stress al relax. Dallo stress al relax, oggi la pillola riguarda gli oli essenziali da aggiungere nella nostra vasca da bagno, e li aggiungiamo insieme al dottor Marco Temporin. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva. Dottore, allora aggiungiamo poche gocce di olio essenziale, ma prima di dire quando e quali, cerchiamo di capire come si sceglie un olio essenziale e poi come si aggiunge la temperatura dell'acqua. Ci dia un po' di istruzioni per l'uso e poi andiamo all'olio essenziale giusto per la nostra esigenza. Dottore. Certamente. Allora, intanto c'è da premettere che da molti anni le innumerevoli proprietà dell'idroterapia, quindi la terapia con l'acqua, sono conosciute grazie anche alla Batek Knipe, le cui indicazioni attraverso l'utilizzo dell'acqua associata agli oli essenziali è un valido ausilio per diverse problematiche. Bene. Gli oli essenziali in terapia, definiti appunto aromaterapia, possono essere utilizzati nella vasca da bagno. Ovviamente l'ambiente deve essere di giusta temperatura, per cui non deve essere eccessivamente caldo, sì. Però ovviamente nemmeno troppo freddo. Tiepidino, diciamo così, dottor Temporin, tiepidino. Tiepidino, bisogna distinguere, per esempio, per chi soffre di problematiche venose periferiche, un'acqua troppo calda potrebbe non andar bene. E invece per il soggetto freddoloso, che magari è anche un po' raffreddato, un'acqua un pochettino più calda può essere d'aiuto. come faccio a sapere se l'olio essenziale che acquisto va bene, è di buona qualità, oppure dovrei scegliere qualcos'altro? Allora, diciamo che l'olio essenziale che poi io posso trovare negli oli da bagno viene mescolato assieme a degli altri oli che poi hanno questa caratteristica, che disciolti in acqua hanno un effetto ovviamente emulsionante, ma non deve essere assolutamente creata né schiuma, né tantomeno ci devono essere dei tensiattivi forti, perché questi vanno ad alterare ovviamente le proprietà dell'olio essenziale, certo, stesso. Per cui io non devo trovare nella confezione dell'olio da bagno aggiunte alcune sostanze né coloranti, che magari sono belle da vedere ma poi non sono assolutamente utili, e nemmeno sostanze che possano aumentare quel piacevole effetto schiumogeno, che però non è assolutamente utile ai fini terapeutici. Allora, la schiuma non la vogliamo. Diamo delle indicazioni, facciamo una brevissima ricetta. Allora, abbiamo detto dallo stress al relax, iniziamo con l'olio giusto per le persone che alla fine di una giornata sono a pezzi, stressate, hanno passato tutta la giornata di corsa e dicono: vado in vasca, nessuno mi disturbi. Cosa aggiungono? Allora, sicuramente in questo caso l'olio da bagno a base di oli essenziali di fiori d'arancio e tiglio ha un effetto distensivo, la temperatura dell'acqua bella calda, e soprattutto dopo aver fatto il bagno, che può essere una durata di 15-20 minuti, andare a letto e cercare di continuare l'effetto rilassante anche a letto. Senta, invece se io sono stanca però non vado a letto, io voglio uscire, farmi bella, andare a ballare, però sono a pezzi? Allora, in questo caso lei mi manda subito a dormire, ma invece uno magari vuole uscire, allora occupiamoci anche di chi magari stasera va a farsi una serata ballando il tango. Allora, per chi stasera vuole farsi una serata ballando il tango, l'olio essenziale di rosmarino ha un effetto tonico e rivitalizzante, oppure l'olio essenziale con i fiori di fieno. Magnifico. Senta, dottore, io devo salutarla. Intanto io il mio olio essenziale l'ho già, no? Me lo sono già segnato, così avranno fatto i nostri ascoltatori. Naturalmente col dottor Temporin torneremo a parlare di rimedi, di cose per farci stare bene, per tornare in forma. Dottore, la saluto. Un caro saluto, Nicoletta. Grazie a lei, a voi che ci avete seguito. Io do come sempre appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Non mancate, intanto buonissima giornata.